30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. 7 giorni all'indipendenza. Il 9 di luglio nasce il Sud Sudan. Un nuovo stato si separa da quello che era il più grande paese africano. Assalti, saccheggi, incendi delle forze di difesa popolare governativa hanno purtroppo segnato le settimane precedenti questa importante data. La paura di Khartoum è quella di perdere con la secessione oltre il 36% dei profitti che ricava dalla gestione del petrolio. I campi petroliferi infatti sono al sud, ma le strutture di sfruttamento sono tutte controllate da Khartoum. Ancora un saluto, un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, oggi, questa sera, anzi, parliamo di Sud Sudan. L'abbiamo già fatto, stiamo parlando del più grande paese dell'Africa, o almeno lo sarà fino al 9 luglio, quando appunto il sud del Sudan porterà a compimento questo percorso passato attraverso anni di guerra e poi referendum e voto di separazione dal resto del paese. Naturalmente i problemi, le complessità sono enormi e questa sera cerchiamo di aiutarci a capire meglio. Ci aiuta in questo una collega, Anna Pozzi, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti. Dunque Anna, prima cosa e direi essenziale, tu sei di ritorno da un viaggio che ti ha portato in luoghi dai nomi poco familiari come Giuba, come Rumbek, come Yambio, insomma il Sud Sudan oggi. Io direi di partire dalla capitale, Giuba, quindi già una nuova capitale nella mappa della geografia mondiale. Che città è, che cosa hai trovato qui, lì nel Sud Sudan? Beh, una nuova capitale che si sta costruendo in maniera frenetica, con grande fermento, grande entusiasmo, è veramente impressionante Giuba. Giuba si vede veramente questo nuovo paese che nasce nel giro di pochi mesi. Bisogna ricordare che lo scorso 9 gennaio c'è stato un referendum alla vigilia del quale nessuno o molto pochi ci credevano. E questo referendum in realtà si è svolto in maniera pacifica e con una partecipazione veramente massiccia della popolazione, che ha votato praticamente al 99% per la secessione del Sud Sudan. È stata la prima volta in effetti nella storia di queste popolazioni che hanno potuto esprimersi, hanno potuto dire, determinare il loro destino. Solo che da lì in poi è stata veramente una corsa a ostacoli per arrivare a questa data del 9 luglio, che è prestissimo. In 6 mesi hanno dovuto mettere in piedi un paese praticamente da zero. Ecco Anna, 6 mesi per una transizione in un paese come il Sud Sudan è davvero nulla. Sbaglio nell'affermare che questa scelta è stata fatta comunque perché protrarre il periodo di transizione portava anche degli enormi rischi. Già in questi giorni vediamo quanto la tensione ai confini tra i due paesi di fatto si stia esacerbando. Quindi una corsa contro il tempo per arrivare allo status quo? Soprattutto il referendum è stato determinante in questo, nel senso che se fosse stato rinviato probabilmente non lo si sarebbe più fatto, o si sarebbero trovate delle modalità o delle scuse per rinviarlo all'infinito. Una volta fatto il referendum c'era questa scadenza che è veramente folle, di 6 mesi per costruire uno Stato, e però in maniera del tutto approssimativa ci stanno provando e in qualche modo ce la faranno. Ovviamente il 9 luglio non ci sarà uno Stato con tutte le basi solide di uno Stato moderno, e in maniera estremamente precaria e approssimativa riusciranno però a proclamare questa indipendenza di cui i sud-sudanesi sono molto molto fieri ed orgogliosi. 8,8 milioni di abitanti, 90% della popolazione con meno di un dollaro al giorno, l'accesso all'acqua potabile è ridotto al 6,4% della popolazione. Questi sono dati che raccolgo direttamente dal tuo lavoro, dal tuo reportage. Insomma, un paese povero in una situazione critica, con un grande tesoro che è quello del petrolio. Il petrolio, direi anche l'acqua. Il petrolio innanzitutto, che è stato negli ultimi anni della guerra con il Nord la posta in gioco centrale di questo conflitto, perché dall'agosto del 99 in poi è cominciato lo sfruttamento del petrolio, che si trova a cavallo tra Nord e Sud. Attualmente, dopo la spartizione del paese, spartizione ancora problematica perché chiaramente ci sono delle grosse zone di conflitto e di tensione proprio al confine tra il Nord e il Sud, in particolare nello stato della Biei, ma non solo, Il petrolio attualmente si trova al 75% al sud e un terzo al nord. Il problema è che il sud non ha né oleodotti né raffinerie per sfruttarlo, quindi deve necessariamente fare un accordo con il nord per sfruttare il petrolio, che oggi rappresenta il 98% del budget del Sud Sudan. E quindi è un paese che si regge su quest'unica risorsa con grandissime problematiche legate a questo. Ricordavo anche l'acqua, perché il Sud Sudan è ricchissimo dell'acqua, il Nilo Bianco, ma non solo, e questa è una posta in gioco non solo a livello di nord e sud, ma a livello regionale con un grande attore che è l'Egitto. Ecco, il Nilo, visto che l'abbiamo citato, arriva dall'Uganda, attraversa la frontiera, entra in Sud Sudan e prima di unirsi poi all'altra parte del Nilo, appunto a quello azzurro che scende dall'altopiano etiopico, è di fatto la grande arteria anche per una parte importante della popolazione. Voglio dire, l'acqua del fiume assicura una risorsa per la popolazione locale, ma visto che abbiamo citato l'Egitto, ma diciamo porta con sé anche gli interessi di una regione intera, a cominciare dal paese, abbiamo il sud, l'Uganda a sud, l'Egitto a nord. Insomma, la questione del Nilo è molto più complicata e spinosa per la regione di quanto non riguardi solamente il Sudan. Sì, certamente il bacino del Nilo, non solo quello bianco, anche quello blu, comprende 7-8 paesi della regione, e quindi è veramente una situazione complessa con l'Egitto e il Nord Sudan che fanno un po' una parte a sé. Ovviamente l'Egitto usufruisce di un accordo di ormai 50 anni fa, estremamente favorevole per lo sfruttamento delle acque del Nilo, ma ormai tutti quanti rivendicano la possibilità di poter accedere a queste acque. In che senso favorevole? Perché può sfruttarne, credo, il 70-80%, quindi una percentuale altissima di sfruttamento di queste acque, che per l'Egitto sono essenziali e vitali, perché non ha altre risorse. Di fatto i paesi che sono nella parte più alta del corso del fiume si sono impegnati a non drenare oltre un certo livello le risorse idriche del Nilo? Sì, anche se poi in Eritrea piuttosto che in Sudan eccetera anche in Uganda si stanno facendo delle dighe, perché tutti quanti hanno sete d'acqua. Tutti hanno sete d'acqua, tutti hanno sete di energia elettrica, perché stiamo parlando di paesi in cui comunque diciamo la trasformazione anche economica e culturale richiede un maggiore utilizzo di energia. Ecco, questo naturalmente sul contesto generale. Io prima ho citato dei nomi. Giuba, hai detto una capitale in costruzione. Cosa somiglia una capitale oggi come Giuba? Un grande caos, ma anche un grande dinamismo impressionante, un fermento incredibile. Stanno costruendo abitazioni, palazzine. Chi costruisce? In questo momento soprattutto ugandesi e keniani, e etiopi e eritrei. Sono loro quelli maggiormente attivi nell'ambito delle costruzioni. E chi li finanzia? O sono finanziamenti africani? In parte africani, in parte internazionali, così come la costruzione delle strade. A Giuba stanno asfaltando tutte le strade, c'è veramente un caos incredibile per questo, però è impressionante chi c'è stato in questi ultimi anni. Dice che la capitale nel giro di 2 anni ha cambiato volto, è passata da un villaggione a una specie di nuova capitale. In realtà poi, se si vedono i ministeri, alcuni sono ancora nei container, e tutto estremamente precario. Però è veramente proprio il centro in cui si stanno avvenendo le cose. Il centro di tutte le cose. Gli Stati Uniti si sono spesi molto, anche in termini di immagini, per questa indipendenza. A Giuba si ha l'impressione di essere, come dire, questa presenza è palpabile o magari è una tra le tante? Allora, visibilmente soprattutto attraverso USAID, quindi l'agenzia governativa per la cooperazione e lo sviluppo degli Stati Uniti. Poi parlando chiaramente con autorità o gente che lavora a livello di Nazioni Unite eccetera, si percepisce chiaramente che gli Stati Uniti hanno molto sostenuto questo processo verso innanzitutto per la firma della pace, dell'accordo di pace del 2005, e poi verso l'indipendenza. E l'hanno sostenuto a tutti i livelli, sia economicamente ma anche piazzando delle persone nei luoghi chiave. Ecco, e l'Italia in questo scenario? Hai avuto, come dire, hai incontrato tracce attività italiane a Giuba? Abbastanza, soprattutto nel campo della cooperazione e poi nel mondo missionario, ma perché c'è un'antichissima tradizione legata Con Bognani, soprattutto, esatto, che... alla presenza di Daniele Comboni, che ha fatto del Sudan la sua perla nera, quindi era proprio l'Africa prediletta, e la presenza dei Comboniani e delle Comboniane è ancora veramente preziosa. Diciamo che i quadri e l'elite sud-sudanesi sono formati o nei seminari dei Comboniani o nelle scuole delle Comboniane. Ci sono alcune ONG che lavorano in Sudan, alcune storiche come la nostra famiglia che è lì dall'83 e altre più recenti come il QAM, CESVI e altre. Quindi ONG che da una parte hanno percorso l'intero processo come appunto dall'83, quindi pieno periodo di guerra, a chi invece è entrato ad aiutare nella fase successiva. Sì, molte sono entrate nella fase successiva. A livello di governo e istituzioni italiane, bisogna dire che l'Italia ha giocato un ruolo importante per la firma dell'accordo di pace, faceva parte di quel gruppo ristretto con appunto Stati Uniti, Gran Bretagna e Norvegia che hanno favorito gli accordi del 2005. Dopodiché purtroppo è un po' scomparsa e lo scorso marzo quando io ero lì non c'era alcuna rappresentanza italiana a Giuba, mentre tutti i paesi in maniera più o meno formale, avevano una propria rappresentanza a livello di cooperazione, c'è veramente molto poco e quindi quello che era stato veramente un ruolo importante dell'Italia per la fase del processo negoziale si è un pochino perso dopo. Ecco, purtroppo il tempo corre, il tuo racconto è molto interessante. Al di fuori di Giuba, tu hai viaggiato parecchio anche al di fuori della capitale, di questa capitale in costruzione. Che cos'è il Sud Sudan oggi? Ecco, fuori da Giuba c'è il paese vero. E che fa veramente impressione perché mancano le infrastrutture drammaticamente, i sistemi educativi e sanitari sono davvero rudimentali, per muoversi è un problema grave, l'economia è quasi azzerata. E al di là di questo ci sono dei problemi oggettivi veramente enormi, per esempio l'agricoltura, cioè l'1% del territorio che è coltivato e quindi tutto viene importato con dei prezzi assolutamente assurdi e inaccessibili. Ma al di là di questo, dei problemi veramente gravi, oggettivi di un paese che ricomincia da zero, dai livelli più bassi dello sviluppo, è molto bello vedere questo entusiasmo della gente, questa fierezza della gente. In pochi posti dell'Africa oggi si incontrano persone davvero fiere e orgogliose che sono andate massicciamente a votare per il referendum, è la prima cosa che ti dicono. Anche ragazzi molto giovani, ragazze molto giovani, appena diciottenni, tutti ti dicono come prima cosa: io ho votato per essere finalmente liberi. E allora va tutto costruito, però in questo momento è bello riscontrare anche questa voglia di farlo. La speranza, dunque. Anna, devo dire che il tuo racconto mi ricorda molto il 93 Eritrea. Partecipai in mezzo alle folle che andavano a votare per il referendum dell'indipendenza dall'Etiopia. Si preparava una nuova primavera. Poi in realtà le cose non sono andate come si sperava. Un presidente che aveva promesso di passare rapidamente la mano è ancora lì e l'Eritrea soffre pesantemente anche per queste scelte. Naturalmente noi speriamo che il destino del Sud Sudan sia diverso. Intanto ringrazio Anna Pozzi di essere stato con noi. Ricordo Mondo in Missione, lo trovate anche sul web, così da seguire questi approfondimenti molto interessanti. Ora sentiamo insieme la viabilità, poi torniamo per la seconda parte. 30 minuti in cronaca. Sud Sudan, dunque, ormai pochi giorni per la nascita, per il completamento di questo percorso di nascita di uno Stato. Tutto questo avviene tra notevoli difficoltà, segnali di tensione, veri e propri combattimenti lungo quella frontiera. A questo punto, tra il sud del Sudan e il nord del Sud Sudan, scusate il gioco di parole. Ne parliamo in questa seconda parte con Mario Raffaelli, che lo ricordo è stato sottosegretario agli affari esteri, è stato capo mediatore per il Mozambico, è stato inviato speciale per il Corno d'Africa e presidente di Amref Italia. Grazie di essere con noi. Grazie a voi. Dunque, partiamo di nuovo dall'Italia. La sensazione è che dopo aver svolto un grande ruolo, ora non ci sia una presenza italiana forte. Lei è d'accordo su questo punto? Sicuramente, diciamo, dal punto di vista generale, qualche tempo fa l'Italia era presente attivamente nel quartetto. E via via questa presenza è sparita, per cui oggi si parla di troica. Devo dire che anche all'epoca io non seguivo i negoziati per Khartoum, ma ero a Nairobi per la Somalia, quindi diciamo, vivevo nelle stanze accanto, anche allora c'era un tentativo da parte di altri paesi di emarginare la nostra presenza, ma un ruolo efficace nella discussione dei temi per la mediazione ha fatto sì che l'Italia rimanesse, diciamo, agganciata. Adesso sicuramente questa presenza si è affievolita. È importante a questo punto di vista il fatto che so che c'è una decisione di aprire formalmente la presenza italiana a Giuba, e credo che il 9 luglio il sottosegretario Mantica sarà presente alla manifestazione di apertura. Dunque, la presenza del governo italiano è prevista per il 9 luglio, ma di fatto questo quartetto è diventato una troica. Ma torniamo ovviamente a Giuba. Ecco, tra le incertezze che ci sono per questo nuovo neonato paese africano c'è quella anche ovviamente della classe dirigente, cioè una classe di militari che diventano politici? Sì, sicuramente questo è uno dei punti importanti, perché ovviamente l'attenzione internazionale è focalizzata giustamente sui problemi posti dal Nord e dall'atteggiamento che il Nord ha nei confronti del rispetto dell'applicazione degli accordi di pace. Ma al di là di questo c'è anche un problema interno al sud, al fatto, tra gli altri, che siamo in presenza di un movimento che proviene da una storia totalmente militare e che quindi fa fatica a cambiare pelle e a trasformarsi in partito politico. E questo ovviamente ha dei riflessi anche nei rapporti all'interno del sud. Perché va ricordato che mentre c'è una grandissima unità, il 99% che ha votato per l'indipendenza, ci sono poi una serie di focolai all'interno del sud che vengono spesso sfruttati dal nord per creare ulteriori tensioni, e questi focolai nascono anche in relazione a problemi, come sempre in Africa, di natura etnica, ma legati anche al problema della gestione del potere. E quindi non c'è dubbio che una volta assicurata una transizione, diciamo, rispettosa degli accordi di pace, molta attenzione vada data anche a questo processo interno di trasformazione e di democratizzazione. Dal Sud Sudan al Nord Sudan, ma in questa fase anche alla Libia, insomma, si sta creando un'enorme area di instabilità, anzi si è già creata. Ecco, lei, in questo mi rivolgo anche al presidente di Amrefitalia, in che modo state registrando questo grande processo di instabilità che di fatto salda grandi paesi, anche distanti tra loro, ma collegati, ricordiamo Sudan e Libia, peraltro confinano tra di loro? Noi ovviamente abbiamo una presenza in alcuni di questi paesi, in particolare in Sud Sudan. Io ci sono stato recentemente in febbraio per una settimana, noi abbiamo un intervento molto importante a Maridi, che è una scuola di training per clinical officers, che sono questi, diciamo, infermieri particolarmente professionalizzati che fanno un corso di 3 anni, ed è un intervento importante perché pensi che ha formato 307 clinical officers su 400 che sono nel paese. Quindi evidentemente la nostra ottica e il nostro intervento è sotto un profilo umanitario, ma che è fondamentale in questi paesi. Da un punto di vista generale, ovviamente c'è una grande crisi, una grande tensione che attraversa in particolare il Corno d'Africa e che si collega oggi con quanto sta accadendo in Libia, nei paesi del Maghreb, però con, diciamo, due prospettive abbastanza diverse, perché in Corno d'Africa c'è una tensione che rischia seriamente, se le cose andassero male, soprattutto in Sud Sudan, di creare un fenomeno di grande pericolosità, perché se al focolaio ormai cronico in Somalia si aggiungesse anche una nuova tensione in Sud Sudan, e tutta la regione che ne sarebbe coinvolta. Dall'altra parte, nel Maghreb si assiste a un processo che ha rischi ma anche grandi potenzialità, e che è più tranquillizzante in paesi come l'Egitto, come la Tunisia, meno ovviamente in Libia, dove non si intravede ancora una soluzione politica che possa prendere posto l'intervento militare, e in altri come lo Yemen, che sono sull'orlo di diventare una nuova Somalia. Insomma, un Sud Sudan al centro di un sistema di complessità, da un lato di trasformazioni con forti speranze per l'esito finale, e intorno invece situazioni decisamente più critiche. Ecco, Raffaele, ma quando dice se le cose andassero male, A cosa pensa realmente? All'ipotesi che possa addirittura saltare questo processo di separazione? Ma questo non credo, anche perché l'impegno internazionale è molto forte. Lei ha visto che anche in questi giorni di tensione crescente, di focolai militari che sono aperti nelle zone più sensibili come Abyei, il Sud Kordofan, c'è stato un intervento diretto nuovamente da parte americana, in prima persona da parte di Barack Obama. Questo era successo anche nelle ultime fasi dell'applicazione dell'accordo, quando sembrava che per ragioni tecniche, perché alcune cose non erano state fatte previste nell'accordo, ivi compreso il referendum ad Abyei che doveva essere preventivo rispetto a quello generale, anche allora la presidenza americana intervenne direttamente e ripeto, in questi giorni è previsto l'invio del rappresentante personale, Presidente Lehman, di Obama nella regione. Quindi, li abbiamo citato, diciamo, credo... prima l'America ha diciamo fatto sentire tutto il suo peso, sì, politico e di comunicazione in queste vicende, e questo sicuramente è una garanzia sul processo. Ma allora il rischio è uno stillicidio, che il processo non si interrompa, che non completamente si... Che possa essere completamente, diciamo, rimosso. Ovviamente questo non mette al riparo dalla possibilità di numerose azioni che, provocando focolai di tensione, interventi armati e soprattutto sfruttando queste difficoltà che sono anche all'interno del Sud, che non va dimenticato, è un paese che ha una grande potenzialità petrolifera, ma appunto il 98% degli introiti derivano dal petrolio, con tutti i problemi che questo ciò comporta, anche in termini di corruzione, in termini di dipendenza da una sola, appunto, fonte economica. Di conseguenza non è difficile per chi voglia dall'esterno continuare con uno stilicidio di azioni che rendono difficile il processo. Per questo è importante che, oltre all'intervento degli Stati Uniti, ci sia un atteggiamento positivo da parte della Cina, che è l'altro grande soggetto presente in Sudan, che ha interessi enormi nel settore petrolifero, e io credo che l'azione americana sia tesa anche a sollecitare da parte della Cina un atteggiamento responsabile di aiuto. Se questo accadesse, i margini per Bashir, sul quale, ricordiamo, pende la richiesta del Tribunale internazionale di intervento e sul quale pende la promessa da parte americana di normalizzare invece i rapporti come, diciamo, contropartita di un atteggiamento positivo, forse l'evoluzione migliore potremmo averla. Grazie a Mario Raffaelli di essere stato con noi, lo ricordo, presidente di Amref Italia, ma politico con un'esperienza di molti anni all'interno del Ministero degli Esteri italiani in Africa. Grazie di averci aiutato a capire di più di questo percorso. Lo ricordo, un paese che il 9 di luglio dovrebbe dunque nascere di fatto formalmente, il Sud Sudan, e lo ricordo ancora, 8,8 milioni di abitanti, una popolazione che per il 90% vive con meno di un dollaro al giorno. Insomma, una sfida complicata, al centro dei quali naturalmente il petrolio, l'acqua rappresentano anche elementi di possibile crescita, ma anche di possibili nuove tensioni. Grazie dunque di essere stati con noi. L'appuntamento con 30 minuti in cronaca, come sempre, per sabato prossimo.